Emily Jane Bronte, la guardiana della soglia, 1818-1848. Come suggerisce Virginia Woolf nelle Donne e la scrittura, il genio poetico di Emily Bronte era chiuso nelle sue poesie, ma fu oscurato dal grande clamore e sgomento che suscitò la pubblicazione del suo romanzo Cime tempestose. Attraverso i suoi versi in rima alternata, Emily parlò di sé mettendosi a nudo. È proprio per questo che, così riservata e ribelle, aborrì inizialmente l'idea che qualcuno li leggesse e ancor più che venissero pubblicati. Emily non scriveva per essere letta, ma per il piacere di dipingere con le parole il suo mondo interiore e fissare sulla carta le avventure dell'immaginazione. È proprio attraverso la sua poesia che possiamo percepire l'immensità del suo talento e la vastità di questo mondo, e grazie ad essa possiamo comprendere le infinite sfumature metafisiche di cui il suo unico romanzo è ricco. A 12 anni di distanza dalla nascita di Elizabeth Barrett Browning, la storia di Emily Bronte è indissolubilmente intrecciata a quella delle sue sorelle scrittrici Charlotte e Anne, e noi della Scuola delle Donne ne abbiamo ampiamente parlato in diverse classi. Ne ripercorriamo alcune fasi che approfondiamo insieme per sottolineare i tratti salienti della sua poesia. Nata in Inghilterra nel 1818 tra le lande ventose e selvagge dello Yorkshire, il perno della sua vita fu la canonica di Haworth, dove il padre, l'irlandese Patrick Bronte, svolse il ruolo di curato anglicano. Penultima di sei tra cinque figlie e un figlio, Emily fu a contatto con la morte fin dalla tenera età, non solo per la tragica perdita della madre, per complicazioni postparto e delle due sorelle maggiori, ma anche perché la canonica era confinante con il cimitero di Haworth, il quale fu per lei anche luogo di giochi e racconti d'infanzia. Una sua poesia recita: «Vedo intorno a me pietose lapidi grigie che allungano le loro ombre lontano. Sotto il tappeto erboso, il filo dei miei passi, giace basso e solitario il morto silenzio. Sotto il tappeto erboso, sotto la muffa, per sempre buio, per sempre freddo. E i miei occhi non possono trattenere le lacrime che la memoria accumula da anni scomparsi, perché il tempo e la morte e il dolore mortale donano ferite che non si rimargineranno più. Lasciami ricordare la metà dei guai che ho visto, udito e sentito qua giù, e il cielo stesso, così puro e benedetto, non potrebbe mai dare riposo al mio spirito. Dolce terra di luce, i tuoi buoni figli non conoscono nulla di simile alla nostra disperazione, né hanno sentito, né possono dire quali inquilini infestano ogni cella mortale, quali tetri ospiti teniamo dentro, tormenti e pazzia, lacerazione e peccato. Ebbene, possano essi vivere in estasi la loro lunga eternità di gioia. Noi tutti splendiamo nella vita che se ne va. I nostri ultimi cari desideri si fondono con i tuoi e lottiamo ancora e ci sforziamo di rintracciare con lo sguardo annebbiato il tuo caro volto. Non lasceremmo la nostra natura a casa per nessun mondo al di là della tomba. No, madre, del tuo gentile petto lascia che ci adagiamo in un riposo eterno, o svegli, ma solo per condividere con te una reciproca immortalità. Sotto la rigorosa e audace educazione paterna, Charlotte, Branwell, Emily e Anne si divertivano a creare mondi immaginari e a redigere i resoconti delle avventure fantastiche dei loro personaggi inventati, prendendo spunto dai libri di storia, politica, teologia, filosofia e poesia nella libreria paterna sempre a loro disposizione e nella biblioteca cittadina. La saga di Gondal, creata da lei e Anne, fu il filo conduttore dei suoi scritti e parte essenziale per la sua crescita come donna, scrittrice, poeta e mistica. Ma la sua vera maestra fu la brughiera. Emily era un'anima selvaggia proprio come il paesaggio che la circondava e dove trovava conforto al crescente richiamo della sua anima. Il suo momento di comunione spirituale era girovagare per le colline ventose con l'imponente mastino Keeper che faceva paura a tutto il paese, ma che era fedele e docile solo con lei. La zia Elizabeth, che raggiunse la canonica alla morte di Mrs. Bronte, sua sorella, per accudire le nipoti, era sconcertata dall'amore di Emily per gli animali, che ella imparò sempre più a preferire agli uomini. L'osservazione della natura era il punto di partenza per descrivere il suo stato d'animo e quello dei suoi personaggi della saga, ma con il tempo divenne il rifugio e l'ispirazione per la sua visione del mondo, tanto che allontanarsi dalla brughiera per lei divenne motivo di malattia e depressione. Scrive Emily: «Nella dolce mezzanotte estiva, una luna limpida brillava attraverso la finestra aperta del nostro salotto e i roseti erano umidi di rugiada. Sedevo silenziosa e meditavo. Il vento soffice mi scompigliava i capelli. Diceva che il cielo era glorioso e che la terra addormentata era bella. Non avevo bisogno del suo respiro per condurmi a certi pensieri, ma continuava a sussurrare sommessamente: quanto è buio il bosco. Se solo mormoro, le folte foglie frusciano come in un sogno e tutte le loro miriadi di voci sembrano animate d'istinto». Gli dissi: «Va, nobile cantore, la tua voce è seducente e gentile, ma non pensare che la sua musica abbia il potere di raggiungere la mia mente. Gioca con i fiori profumati, con i rami flessuosi dei giovani alberi e lascia che i miei sentimenti umani seguano il loro corso». Ma il peregrino non mi dava pace. Il suo bacio si fece anche più caldo. «Oh, vieni», sospirò così dolcemente, «ti vincerò contro la tua volontà. Non siamo amici dall'infanzia? Non ti ho amato da lungo tempo? Da quando tu hai amato la notte, il cui silenzio risveglia il mio canto? Quando il tuo cuore riposerà sotto la pietra della navata della chiesa, io avrò tutto il tempo di lutto e tu di essere sola». Come Emily Dickinson, anche Emily Bronte amava scrivere di notte, lasciandosi ispirare dalle ombre che davano una diversa veste a tutto ciò che vedeva. Più cresceva, maggiore era la solitudine che cercava tra il silenzio della brughiera, un silenzio che per lei era ricco di voci e di richiami. Scriveva intorno ai 20 anni. «Deve rispondere la luce del tuo sguardo, ora che la ragione, con occhi sdegnosi, irride la mia piena sconfitta. La tua lingua di miele deve parlare per me e dire perché io ti abbia scelto. La severa ragione viene al giudizio, vestita delle sue vesti più cupe. Sarai muto tu, mio difensore? No, angelo radioso, parla per me, spiega perché io abbia scagliato lontano il mondo. Perché con tanta ostinazione ho evitato il comune sentiero che ognuno ha seguito, perché ho percorso una strada sconosciuta, ignorando a un tempo potere e ricchezza, le ghirlande della gloria e i fiori del piacere. Un tempo apparivano creature divine, un tempo forse udirono i miei voti e i loro altari videro le mie offerte, ma doni senza amore non sono apprezzati e i miei vennero disprezzati giustamente. Con un cuore pronto ho giurato di ignorare i loro altari di pietra. Ho consacrato il mio spirito ad adorare te, creatura fantasma, onnipresente, mio schiavo, mio compagno, mio re. Schiavo perché ancora ti governo, ti piego alla mia volontà che vuol mutare, rendo buono o cattivo il tuo influsso. Compagno perché la notte e il giorno tu sei la mia intima delizia. Pena tanto amata che lacera e ferisce e strappa dalle lacrime un grido di gioia, offuscando per me ogni terrena cura. Tuttavia, re, seppure la prudenza ha insegnato alla tua schiava a ribellarsi. Sono in torto se mi inchino a venerare là dove la fede non ha dubbi né la speranza dispera, poiché la mia stessa anima può esaudire la preghiera? Parla, Dio delle visioni, parla per me, spiega perché io ti abbia scelto». Il carattere schivo e volubile di Emily la portò ad allontanarsi sempre di più anche dalla vita religiosa della canonica. Non le erano mai andate a genio le prediche domenicali del padre, con il quale ebbe diversi scontri in merito, come la sua omonima Emily Dickinson. Ma egli non riuscì mai a piegare la figlia, tanto caparbia e inflessibile, e si rassegnò a non vederla in chiesa, tanto più che la sua instancabile dedizione nelle faccende domestiche, anche nei lavori più faticosi e pesanti, la fece in seguito diventare indispensabile nella cura della casa, perno della vita della famiglia. La natura Le rivelava che c'è una visione più ampia di quella delle religioni codificate, una spiritualità profonda, ancestrale, immanente, che non ha bisogno di interpreti e intermediari, ma che respira nella terra in ogni istante. Come parte di questo grande respiro, lei sentiva la divinità dentro di sé e non accettava di esserne separata, come imponeva il dogma. La poesia che esprime in modo sublime tutti questi concetti è la sua ultima, chiamata Last Lines, le ultime linee, proprio quelle che Emily Dickinson chiese venissero lette al suo funerale. Non è codarda la mia anima, non trema nella sfera turbolenta del mondo. Vedo le glorie del paradiso brillare e ugualmente la mia fede brilla per armarmi contro la paura. Oh Dio dentro al mio petto, onnipotente, onnipresente divinità, vita che in me riposa. Come io, vita non morente, ho potere in te. Vane sono le migliaia di credenze che muovono i cuori degli uomini, indicibilmente vane, inutili come erba avvizzita, o come oziosa schiuma sul mare sconfinato, per risvegliare il dubbio in chi si regge così saldamente alla tua infinità, così sicuramente ancorato alla salda roccia dell'immortalità. Con un amore che tutto abbraccia, il tuo spirito anima gli anni eterni, li pervade e li protegge, muta, sostiene, dissolve, crea ed eleva. Anche se la terra e la luna scomparissero, e i soli e gli universi cessassero di essere, e tu solo restassi, ogni esistenza esisterebbe in te. Non c'è spazio per la morte, né atomo che possa rendere vuota la sua forza, poiché tu sei essere e respiro, e ciò che tu sei non potrà mai essere distrutto. Sebbene furono tutte e quattro menti brillanti e precoci, le speranze della famiglia Bronte furono riposte tutte sul fratello Branwell, che crebbe lodato per il suo talento, ma incapace di perseveranza e umiltà per perfezionarlo e metterlo in pratica. Le scarse risorse economiche vennero perciò impiegate per la sua educazione, così come accadde anche a Dante Gabriel Rossetti, il fratello di Cristina Rossetti, di cui lasciamo il link in descrizione. Perciò le tre sorelle studiarono avidamente, ma principalmente da autodidatte. Se l'ambiziosa e puntigliosa Charlotte se ne rammaricava e la mite Anne si adeguava remissiva, per Emily, ribelle e introversa, questo fu un grande sollievo. Le esperienze educative negli istituti femminili dell'epoca furono per lei una prigionia del corpo, della mente e dell'anima e riportavano alla memoria lo straziante ricordo delle pietose condizioni che avevano portato le sorelle maggiori alla morte in giovane età. Paragonandosi a Nero, il falco che trovò ferito nella brughiera e che addomesticò, scrisse i seguenti versi. E come me, solo, completamente solo, vede il lungo risplendere del giorno, e come me effonde il suo lamento in inesausto dolore. Rivolgo alle colline la nostra uguale preghiera, alle colline ventose della terra e al mare azzurro del cielo. Non chiedo nient'altro di più che il mio cuore e la libertà. Ah, potesse la mia mano sciogliere la sua catena! Con quale gioia lo guarderei spiccare il volo e senza mai rimpianto e senza mai lamento di non veder mai più i suoi occhi lucenti. Ma mi sia concesso pensare che se oggi lui langue in una fredda cattività, domani entrambi ci slanceremo in volo eternamente, interamente liberi. Mentre Branwell, sicuro del suo genio, tentava gli studi e una carriera come artista grazie agli sforzi e ai sacrifici di tutta la famiglia, le tre sorelle crebbero imparando a badare a se stesse, supportandosi l'un l'altra e coltivando insieme la grande passione per lo studio, la scrittura, le lingue straniere e la musica. Spinte dalle scarse entrate del padre e dai fallimenti del fratello, si prodigarono come istitutrici private, lavoro duro e denigrante che Charlotte e Anne denunciarono successivamente nei romanzi Villette e Agnes Grey. Charlotte, determinata e sicura delle competenze acquisite in anni di studio ed insegnamento, tra cui l'esperienza con Emily a Bruxelles, si prodigò con il supporto delle sorelle e di tutta la famiglia ad aprire un istituto presso la canonica. Per il bene della famiglia e per creare un impiego sicuro alle sorelle terribilmente infelici e lontane da casa, anche Emily si impegnò molto per la riuscita del progetto, ma soffrì tremendamente la lontananza dalla brughiera fino ad ammalarsi. Silenziosa e impenetrabile, decise che l'unico modo di esprimere il suo risentimento e liberare il suo animo incontenibile era attraverso i devoirs, compiti richiesti dal suo insegnante di francese. Nelle convenzionali richieste alle alunne dei corsi, Emily, senza mezzi termini e in un francese elementare, trasponeva tutta la sua frustrazione per un metodo di studio che considerava inutile e palesava tutto il suo sdegno per la perseveranza umana al male, considerando l'ipocrisia, la crudeltà e l'ingratitudine dei vizi che l'educazione tendeva ad esaltare, camuffandoli con il nome di gentilezza e magnanimità. Scrisse in una poesia, infatti: «Perché chiedere di sapere in quale data, in quale clima? Lì dimorava la nostra umanità, adoratori del potere fin dai tempi più remoti, prostrati di piedi del crimine trionfante, schiacciatori di miseria impotente, schiacciando la giustizia e onorando il male. Se questo è debole, questo è forte. Spargitori di sangue, spargitori di lacrime, creature cadute avide di angoscia, eppure beffeggiando il cielo con preghiere insensate, per la misericordia di chi misericordia non ha». Nonostante tutti gli sforzi, il progetto delle sorelle fallì e una delle cause fu anche la depressione e la malattia di Branwell che, caricato di aspettative più pesanti di ciò che poteva sopportare e comprendendo di non essere un genio indispensabile al mondo, tornò alla canonica e si consolò con alcol e oppio, contraendo debiti e sperperando ancora di più le misere risorse familiari. Presasi in carico i lavori domestici e la gestione della casa, Emily lo accudì con grande tenerezza, fermezza e compassione, qualità che ella soltanto sembrò continuare ad alimentare per il fratello. Fu l'unica della famiglia, infatti, a non giudicarlo e né a condannarlo, perché vide in lui un essere amareggiato e spezzato, che soffriva. Si mise perciò al servizio con tutta se stessa e cercò di essere utile il più possibile per alleviare le inesauribili pene di Branwell. Scrisse così nel maggio del 1843, a 25 anni. «In quest'ora, in questo luogo, il mondo sembra fatto di luce. I nostri cuori beati non ricordano come segue la notte. So che le nostre anime sono tutte divine, so che quando moriremo ciò che sembra il più vile anche in te risplenderà come una parte di Dio stesso in perfetta purezza. Come splende il sole della terra nel mezzogiorno d'estate, così il sole del cielo splende in te. Che gli altri cerchino i suoi raggi divini nella cella e nel chiostro tetro, ma qui ho trovato un santuario più bello e un culto più felice. Con tristi riti guadagnano la loro beatitudine, con penitenze, digiuni e paure. Io ho un solo rito, un bacio gentile e un'unica penitenza, lacrime tenere. Oh, se così fosse per sempre, che io potessi così adorare, chiederei tutta l'eternità di fare un paradiso per me, il mio amore e niente di più». Emily conosceva bene il mondo dell'immaginazione e aveva capito chiaramente come Branwell ne fosse rimasto preda. Saper vedere la realtà nella sua crudezza e nella sua interezza richiedeva il coraggio e l'onestà che il fratello non aveva, né verso di sé né verso i suoi cari. Nei seguenti versi, Emily dichiara la propria visione e posizione nel mondo con un'integrità e una forza disarmanti. «Io sono l'unica il cui destino lingua non indaga, occhio non piange. Non ho mai causato un cupo pensiero né un sorriso di gioia da quando sono nata. Tra piaceri segreti e lacrime segrete, questa mutevole vita mi è sfuggita, sempre così solitaria dopo i 18 anni, come nel giorno della mia nascita. E vi furono tempi che non posso nascondere, tempi in cui tutto ciò era terribile, quando la mia triste anima perse il suo orgoglio e desiderò qualcuno che l'amasse qua giù. Ma questi erano i primi ardori di sentimenti poi repressi dal dolore e sono morti da così lungo tempo che stento a credere siano mai esistiti. Prima si dissolse la speranza giovanile, poi svanì l'arcobaleno della fantasia. Infine, l'esperienza mi insegnò che la verità mai germoglia in un cuore mortale. Era già amaro pensare che l'umanità fosse vuota, servile e insincera, ma peggio fu affidarmi alla mia mente e trovarvi la stessa corruzione. Fu solo leggendo con trasporto alcune poesie di Emily, lasciate inavvertitamente incustodite tra un lavoro domestico e l'altro, che nacque in Charlotte la speranza e l'idea di pubblicare i loro scritti. Per Emily, però, fu un grande colpo. Si sentì intimamente tradita, ma successivamente si convinse, non certo per interesse o per fama, ma unicamente per necessità e per supporto al malessere in cui viveva la famiglia. Il suo animo era gentile e altruista, tanto che preferì accontentare le sorelle che non avevano, come lei, il grande sollievo del suo mondo interiore. Charlotte sapeva che il vero genio e la speranza di riuscita del progetto stavano nelle poesie di Emily, la quale pose una condizione inderogabile. La sua identità doveva rimanere nascosta. Nacquero così gli pseudonimi maschili Currer, Ellis, Acton Bell, anche per celare il loro tentativo al fratello che da anni pubblicava senza successo le sue poesie sui giornali locali. Era il 1846. Charlotte aveva 30 anni, Emily 28 e Anne 26. Scrive Emily in questi anni: «Le ricchezze io tengo in poca stima e rido con disprezzo all'amore, e la brama di fama era solo un sogno che è svanito con il mattino. E se io prego, la sola preghiera che muove le labbra per me è: lascia il cuore che ora porto e dammi la libertà. Sì, mentre i miei giorni si avvicinano veloce alla meta, questo è ciò che imploro. Nella vita e nella morte, un'anima senza catene che abbia coraggio di sopportare». Più che le poesie, furono i romanzi che fecero scalpore. Jane Eyre, Cime tempestose e Agnes Grey denunciavano temi scomodi e rivoluzionavano la letteratura dell'epoca. Se la critica non vide di buon occhio e inizialmente non capì il loro potenziale, il clamore che suscitarono ampliò esponenzialmente la curiosità e il successo. Cime tempestose fu quello più criticato per i suoi contenuti scioccanti, che rivelano il lato nascosto dell'essere umano. Rabbia, vendetta, paura, rancore, ignoranza, ansia, violenza, ossessione e premeditazione si dipanano davanti agli occhi increduli dei lettori e delle lettrici, che non accettano di riconoscersi in personaggi così complessi e oppressi, ma che vengono abilmente e ripetutamente costretti a guardarsi dentro. Ancora oggi Cime tempestose è un romanzo che ci scuote profondamente, ma che non riusciamo a smettere di leggere, perché spalanca davanti a noi quel baratro che abbiamo dentro e che non vogliamo affatto vedere, ma che indubbiamente c'è. Come parte della natura, anche l'uomo è un animale che gioca con la vita e la morte, ma diversamente da tutti gli altri animali, egli non ha la consapevolezza di questo gioco e lo giudica secondo ipocrite concezioni morali, perdendone di vista gli insegnamenti e il senso della propria esistenza. L'odio può cambiare l'animo umano tanto quanto l'amore, con la differenza che il primo richiede tempo e gretti sforzi per piegare la dignità e la speranza, mentre il secondo ha una potenza luminosa, immediata e duratura. L'amore, però, non è idealizzato nell'unione romantica e felice, come la minne per le mistiche Adwecht di Anversa, Mädchen di Magdeburgo, Beatrice di Nazareth e la Dame Amour di Marguerite Porete. L'amore è quella forza potente che eleva tanto quanto annienta e sfigura i personaggi, senza perdere la sua devastante purezza. Con queste tematiche truci, esaltate dallo sfondo della brughiera, Emily portò lo stile gotico tanto in voga al tempo ai massimi livelli, strappandolo dal perbenismo commerciale e avvolgendolo nel misticismo pagano e nella misteriosa atmosfera della brughiera, per mettere così in luce la relazione inalienabile tra il mondo visibile e i mondi invisibili. La morte diventa il portale tra questi mondi e, come osservato in una delle prime classi dedicate alle sorelle Bronte, è per questo motivo che attribuisco ad Emily il terzo aspetto della triplice dea, quello della guardiana della soglia e custode della porta dell'ovest, ridando all'umile e mite Anne l'aspetto della dea fanciulla e lasciando a Charlotte l'indiscutibile aspetto della dea madre generatrice. La produzione delle tre sorelle fu stroncata dagli avvenimenti familiari. Il fratello si spense a 31 anni nel 1848, consumato dal demone dentro di sé. E pochi mesi dopo lo seguì anche la trentenne Emily, che si ammalò gravemente il giorno del funerale di Branwell e che continuò con stoicismo il suo lavoro alla canonica, rifiutando con risolutezza ogni cura. Anne lasciò il corpo l'anno successivo a soli 29 anni. La lapide di famiglia era talmente piena di scritte che non c'era più posto per chi era rimasto in vita, tanto che dovettero aggiungerne un'altra successivamente. Charlotte fece in tempo a vivere qualche anno nell'agio e nella fama, tanto desiderati. Non senza difficoltà e impedimenti da parte del padre, si sposò con il reverendo irlandese Arthur Bell Nichols, che aiutava da anni alla canonica. Cagionevole di costituzione e indebolita dalle avversità della vita, continuò a scrivere e a rivisitare le sue pubblicazioni e quelle delle sorelle. Poi si spense a 39 anni, prima di poter dare alla luce la sua creatura. Oltre a Cime tempestose, a noi sono arrivate circa 200 poesie, ma il manoscritto del secondo romanzo di Emily, di cui si accennava in alcune lettere, fu probabilmente eliminato da Charlotte, così come altri scritti. Dalle sue poesie emerge l'anima ribelle e selvaggia di una giovane donna con un talento immenso e una visione chiara e lungimirante. La sua breve vita è per noi della Scuola delle Donne un grande esempio di coraggio, volontà e integrità.